gente che le prende al posto degli altri, mentre gli altri si han già sbattuto le ali. Senza famiglia, altri aspettano telegiornale, una figlia. C'è chi è rimasto in mutande, ma per gli anticonformisti non è importante. C'è troppa gente che si lava la bocca e alla fine gente che si lava le mani e non infila a fare gli asciugamani.